sì, proprio dentro me. Spingila per lasciarla andare, spingila, non la puoi fermare. Non pensare di fuggire da te stesso, sta a sentire. È il cagotto che ti devasta, resta dentro nella tua testa. Non importa se dici basta, hasta la vista. Chi è in pista pesta e non s'arresta. È una puzza da fuori di testa. C'hai fame? C'ho fame, sì. Allora mangiate questa, che è? A merda? Mica ti farà schifo, è roba tua. Magari ti ci metto un po' di formaggio, eh? Sempre merda, eh? Sì, ma la parmigiana. Il colore della perdizione non è rosso nero, ma è così marrone. La poesia non sta più nel cuore, è nell'intestino. Aiuto! Topolino scureggia Pluto. Clap, plup, clic.